avete sentito un elemento, dico uno elemento, da parte della pubblica accusa, che ha evidentemente una conoscenza limitata del processo, ma avete sentito un elemento a conforto della violenza sessuale che il Tuccia avrebbe perpetrato nei confronti dell'attuale parte offesa? Un solo elemento di una violenza, la violenza, perché di violenza parliamo, perché voglio dire, poi vedremo, no? La violenza sessuale è un atto violento, no? Allora, avete sentito voi uno solo elemento impositivo che ha addebitato al Tuccia un atto violento nei confronti dell'attuale parte offesa? Avete voi sentito in questa fase un solo elemento che vi hanno proposto i difensori e che vi ha proposto la Procura Generale di un atto minaccioso da parte del Tuccia? Avete voi sentito un solo elemento, perché alla fine giustamente la sentenza deve a un certo punto triplare la situazione, no? Avete sentito un solo elemento di un atto induttivo compiuto dal Tuccia nei confronti di questa ragazza? Noi non vogliamo demolire nessuno, diceva un vecchio e sempre amato presidente di Corte d'Appello, il processo penale è il processo del fatto. Voi dovete ricostruire il fatto, altro che demolire la parte offesa, che io in questo momento non vedo, non conosco, non voglio vedere e non voglio conoscere. Io che sono uomo di parte, ho avuto la fortuna di incontrare il Tuccia Francesco nella propria casa e negli arresti domiciliari. Ecco perché io non accetto giudizi morali, questo sia detto a chiare note, stavo quasi per chiedere la verbalizzazione. Non accetto giudizi morali, perché io ho avuto la fortuna di incontrare il Tuccia nella propria casa, che è una casa modesta, che è una casa composta da lavoratori, che è una casa per bene, che è una casa nella quale si traspira e che è stata massacrata da un impatto mediatico. La prossima parola da un impatto. No, avvocato Valentini, prego. Bene che siamo. La prossima parola da un impatto mediatico veramente di proporzioni non comuni. E quando io ho detto, e ovviamente ho detto perché io lo devo dire, io devo difendere il Tuccia, io lo devo difendere, altro che generiche, noi chiediamo la soluzione del Tuccia e vedremo i motivi di fatto attraverso i quali nella ricostruzione del fatto, non nella ricostruzione della personalità che non mi riguarda, che non mi riguarda. Io non ho mai guardato in faccia la parte offesa, seguito a non guardarla, non ho mai rilasciato nulla, né interviste, né nulla, non mi riguarda, non me ne importa nulla. I fatti. Ecco perché nel giudizio occorre, e nel giudizio c'è una dose di coraggio, deve esserci una dose di coraggio, al di là di quelli che sono poi le risultanze mediatiche. Ma la vedete, la colla, sembra una tragedia greca, la colla che sta alle mie spalle. Ecco perché io dicevo, ma per carità, ma ci mancherebbe, ma deve essere ovviamente una situazione di compostezza, non può essere il coro della tragedia greca, perché sono i fatti poi quelli che contano, perché delle persone che magari protestano o comunque si avventano contro una sentenza 8 anni, ritenendo che una sentenza 8 anni per una persona infraventunenne sia poca cosa, queste persone poi, io sono convinto che di queste carte processuali non hanno letto nulla. Ecco perché poi i giudici vanno e devono spersonalizzarsi. Addirittura in Inghilterra plasticamente si mettono la parrucca, voglio dire, proprio per simboleggiare anche in maniera plastica la spersonalizzazione. Ma allora dico, tutto questo deve ovviamente avere un senso, no? Allora il difensore a questo punto è costretto a prendere in mano la sentenza del tribunale. Noi abbiamo detto, per carità, le sentenze si rispettano, si eseguono, soprattutto si rispettano, però noi abbiamo detto con serenità, c'è una sentenza che manca dei necessari passaggi logici, dopo il capo di imputazione, dove si parla di una violenza, e su questo poi, sulla, come dire, diversità tra la contestazione e la sentenza, tra la mancata correlazione, vi parlerà il secondo difensore, anzi il primo, vi parlerà il co-difensore. Ma l'incipit, cioè noi siamo stati tratti a giudizio per aver compiuto degli atti, poi parleremo del phishing, che non esiste, ma dopo ci parleremo di questo. Noi siamo stati portati a giudizio per aver compiuto degli atti sessuali violenti, previo abbassamento forzato, eccetera, eccetera, e abbiamo costretto questa ragazza a subire degli atti sessuali violenti. Questa è l'accusa del capo di imputazione, e dunque ci hanno detto il tentato omicidio, che dal quale, per ragioni anche tecniche, noi siamo usciti, perché altro che un'ora dopo, 30 secondi dopo è stato allertato il 118, questi sono i tempi che dice la sentenza. Primo capoverso, prima pagina, primo capoverso. La storia ha avuto inizio alle ore 00:20 del 12/2/2012, allorché Tizio e Caia, una ragazza non ancora ventenne, vittima della violenza sessuale. Eccolo l'incipit di questa sentenza. Questa sentenza parte da un presupposto, che ci troviamo dinanzi a un violentatore e a una vittima. No, qui ci troviamo dinanzi, e questo è il punto che io voglio ribadire alle signorie loro, ci troviamo dinanzi ad delle lesioni più o meno gravi, perché non sono residuati postumi, se non a livello psicologico, probabilmente a livello psicologico, guardate che voi vi trovate dinanzi ad una parte offesa che, ripeto, della quale io proprio è lontano da me mille miglia qualunque giudizio su questa parte offesa, ma vi trovate in presenza di una parte offesa che il giorno dopo viene assistita da 12 avvocati, il giorno dopo dal consulente, interviene due giorni dopo. Sentito, voglio dire, questo lo possiamo recuperare dai verbali. Quando viene sentito in sede di istruttoria di patrimoniale, dice: no, non è possibile che questa ragazza abbia assunto solo alcol, perché altrimenti avrebbe ricordato. Volete che vi ripeta la pagina? Lo dice in maniera assolutamente seria. È il consulente, loro. Perché c'hanno paura della perizia? Facciamo la perizia, no? Ma qual è il problema? Cioè, vediamo come in termini medici si è sviluppata questa situazione. Ma qual è il problema? Scusate, qual è il problema? Che non è possibile che non si ricordi nulla. O ha assunto delle sostanze diverse, dato dell'assunzione di sostanze diverse smentito, perché hanno fatto subito le analisi, tant'è vero che a un certo punto è costretto a dribblare e dice: no, perché potrebbe aver assunto una sostanza che scompare nel giro di 6 ore. È stata immediatamente allertata. Le prime cure si sono avute alle ore 00:04, cioè a distanza di 10 minuti dall'episodio. Quindi non è possibile. Quindi questa ragazza, questa parte offesa, questa, quello che volete voi, questa ragazza comunque aveva solo ed esclusivamente bevuto. Allora, voglio dire, allora io non posso pretendere che mi si parli di antiviolenza, perché posso ripetere, nella letteratura e nei fatti, 7.500 miliardi di violenze femminili nei confronti degli uomini. Quindi, voglio dire, io non è che la donna subisce delle violenze, la donna ha subito una violenza sessuale, chi l'ha commessa è giusta. È giusto che abbia la giusta sanzione, per carità, e chi lo mette in dubbio? Ma deve aver subito violenza. Allora, la violenza non la subisce, perché lo dice la sentenza, che alla fine è costretta a triplare, ve lo ha detto il procuratore generale oggi. Il procuratore generale, per dire che c'è correlazione tra l'accusa e la futura sentenza, perché questo è il primo passo della sentenza, ma per dire che c'è correlazione, vi dice che non c'è stata mai violenza, ma c'è stato approfittamento di uno stato di ebbrezza. La posso aprire una parentesi in termini di diritto? Voi sapete meglio di me che la precedente violenza sessuale addirittura si presumeva la violenza sessuale in danno del malato di mente. È scomparso questo passaggio. Perché è scomparso con il nuovo articolo 609 bis questo passaggio? È scomparso perché comunque l'approfittamento deve essere dimostrato. Ci vuole la dimostrazione degli atti induttivi da parte di un soggetto nei confronti di altro soggetto. Ci vuole l'atto induttivo. Questo non c'è dubbio che ci vuole l'atto induttivo, lo dice la giurisprudenza, ma che credo che è pacifica, che basta avere il codice, se voglio dire, non è che bisogna andare lontano, basta avere il codice. Tutti gli attesti giurisprudenziali sul punto parlano di un'attività induttiva dell'uno sull'altra o dell'altra sull'uno o dell'uno sull'uno, eccetera, eccetera. Attività induttiva che nel caso di specie non si ravvisa, non ve l'ha detto né la parte civile nella procura generale, ma non ve l'ha detto neanche la sentenza, perché la sentenza, e questo è la ricostruzione, come dire, dinamica di questo fatto, che comunque vedremo, uno può dire, dare delle cose, dice, questa ragazza ci aveva così così così e così, dobbiamo riscontrare pure quello che hanno detto i testimoni, no? Ma la sentenza, così, il problema è proprio questo, che quando la sentenza ricostruisce il fatto, e sul fatto nessuno ha dei dubbi, cioè sul fatto nessuno ha dei dubbi, no? Cioè che a un certo punto questi due ragazzi, coetanei, entrambi infra 21enne, il Turcia doveva ancora compiere, questi ragazzi cominciano delle effusioni, e noi le chiamiamo effusioni, questo possiamo dire con la terminologia quasi così lasciva che è stata usata, no? E le chiamavano effusioni, e lo chiamano amore, no, e le chiamavano effusioni. In che cosa consistevano queste effusioni? Perché questi poi sono i fatti, però questo lo dico indipendentemente da qualsiasi considerazione. Io lo dico indipendentemente da qualsiasi considerazione. Se la Corte d'Appello userà la cortesia di andare a riprendere un passo dei verbali stenotipici, sono illuminanti, perché a foglio 60 del verbale stenotipico, se volete lo rileggo, se voi non volete io non lo rileggo, ci passo sopra, dice che le effusioni consistevano in due punti. L'uno teneva infilate le mani nei pantaloni dell'altro, l'altra aveva le mani infilate nei pantaloni dell'uno. Oggi il test è decantato dalla Procura Generale, giustamente decantato dalla Procura Generale, quindi io non ho motivo di ritenere. Il passaggio motivazionale della sentenza, la quale sentenza dice non poteva non avere, da qui poi l'aggancio alla verità, perché poi non si capisce, no? Perché poi alla fine questa sentenza non si capisce se è un atto violento o un atto induttivo, perché dice il passaggio attraverso il quale si denoterebbe la violenza sarebbe il fatto che la ragazza, la parte offesa, aveva i pantaloni abbassati. Ora, doverosamente premesso che perché possano avvenire quelle effusioni in presenza di pantaloni elasticizzati, occorreva obbligatoriamente che i pantaloni medesimi fossero slacciati. Questi sono i fatti, non le chiacchiere, non la filosofia, questi sono i fatti. È il foglio 34 del verbale stereotipico. I pantaloni, cioè non è lo stesso col quale dice, dai, è sempre lo stesso, vabbè. No, non è lo stesso, è l'altro. Sentito nel corso dell'istruttoria dibattimentale, dice due punti, i pantaloni erano sbottonati. Allora, se i pantaloni erano sbottonati, è stata la violenza. Allora, tripla. Ma questa sentenza, che io seguito a ritenere sentenza ondivaca, cioè qua io ho avuto come l'impressione che questa sentenza sia partita da un dato di fatto, cioè le lesioni subite da questa povera ragazza, poi vedremo, le lesioni si danno di no? Ci può essere violenza senza lesione e ci può essere lesione senza violenza, perché non c'è dubbio, c'è una sentenza bellissima, voi la conoscete meglio di me, del 2012, che proprio spinge in questa direzione, cioè la violenza sessuale può logicamente e ontologicamente essere diversa dalle lesioni. Condivido addirittura il ragionamento che fa la Procura Generale sul punto della coltivazione, però con conclusioni ovviamente diverse. Ma la sentenza si trova in questo sbilanciamento e dà atto la sentenza a fondo 5 degli atteggiamenti intimi all'interno dato degli atteggiamenti intimi, tanto è vero che per ben 3 o 4 volte, diciamo meglio 3 volte, è costretto a usare degli avverbi verosimilmente comunque, forse bisogna vederlo, perché qua fa vedere come è vero, giusto che sia la tutela della raccolta, se consente questa cosa bella andiamo a tutelare di due nonno, ma noi ci spalancano le porte del carcere, che poi quando sento la parte civile che dici, c'è l'altro degli ignoranti, ma mi mai l'ha detto qui, diciamo che la parte civile non può interloquire sulla pena, punto. Beh, allora, questo è l'altro aspetto, peraltro la parte civile non ha fatto neanche a quello, ma non è questo il problema. La sentenza, dicevo, a pagina 5, dà atto degli atteggiamenti intimi, quindi questo è dato di fatto ineludibile, che prescinde da qualsiasi giudizio. Questo veramente è un andare all'incontro. Io non do giudizio, mica sono i nostri, questa all'ingresso del girone che dice Dante a Sabiglia e giudica, io non mi importa niente a me quello che fa l'uno o quello che fa l'altro, ma ci stanno dei dati di fatto che vanno rispettati, no? Allora, dato degli atteggiamenti, a un certo punto, è bellissima perché dice, a un certo punto dice, la ragazza è resta quando fu ritrovata, da atto gli atteggiamenti, poi dice che praticamente questi particolari sembrano oziosi, guardate che questo è importante per capire la psicologia di questa sentenza, sembrano oziosi e utili per descrivere la condizione d'uscita prima e dopo l'aggressione, cioè non dice questi sono i fatti, ergo a questi fatti collego un articolo di legge, no, dice prima e dopo l'aggressione, è il secondo passaggio della sentenza che ancora prima di parlare della motivazione parla di una violenza fisica e di una aggressione. Ma la sentenza va oltre, perché contrariamente a quelle che sono le risultanze processuali che abbiamo visto, dice che ci aveva come se fossero stati scesi di scatto, nessuno l'ha mai detto questo. Questo da nessuna carta processuale risulta questo dato. Ma chi l'ha mai detto che mandavano nello stesso di scatto? Non vanno mandavano nella stessità. Di scatto. Ma chi l'ha mai detto? Lo dice la sentenza. Dopo che la sentenza ha parlato di effusioni, dopo che ci stati i testimoni che vengono in istruttori dibattimentali, dicono quello che dicono. Virgola. La sentenza su questo punto inevitabilmente virgola. Perché poi sui tempi, la sentenza dà dei tempi giusti, tra l'altro dice che alle 3.58 fu allertato il 118, quindi il 118 fu allertato qualche minuto dopo questo fatto, questo non c'è dubbio, no? Quindi lo spazio di azione tra il momento in cui una povera avventurata rimane per terra, sanguinante, però voi sapete, chi ha una comune esperienza sa, se una goccia di sangue si spande sulla neve diventa chissà che, indipendentemente da questo. Ora dicevo, questa azione si riduce non nello spazio di un'ora, come detto prima dalla parte civile, ma nello spazio di pochi e pochissimi minuti. Tra l'altro lo ricostruisce bene il tribunale, il punto di fatto. Ma seguita poi, ed è questo il terzo passaggio, lo vedremo quando parleremo degli amici, quello che hanno detto gli amici, e negli altri, non è che lo dobbiamo dire noi, quello che hanno detto in istruttoria, quello che hanno detto in sede di sommarie informazioni. Ma la sentenza seguita, e quando poi parla del Fuscia, vedremo pure questo perché lo viene distinto in maniera... Ma la sentenza dove... Voglio dire, a un certo punto veramente raggiunge proprio una situazione, al mio modo di vedere, estremamente utile. Fa un discorso metafisico. Dice, guardate, a me, io vi dico che è così, come dice il caso di imputazione, perché questa ragazza è stata ritrovata così. Comunque, un discorso metafisico non guasta perché siamo in, e qui si parla di deserto di sentimenti, e dice, sconcerta l'indifferenza dell'imputato che cerca di scappare. Non è vero! L'imputato non cerca di scappare, l'imputato stava seduto nella macchina, sedile posteriore, con una ragazza che si stava a fumare una sigaretta e la macchina non era accesa, ve lo dice il testimone. Non è vero che cerca di scappare, era stato visto in lungo e per largo. Ma perché non vogliamo dare un minimo di patente di credibilità a questo disgraziato? Ma vi siete mai, per esempio, chiesti, no, voi vivete in una dimensione diversa, lo dico in maniera serena, ma lo dico in maniera pregevole per voi, in una dimensione diversa. Ora però io vi dico che veramente si alzi chi è in grado di non scagliare la medesima pietra, veramente si deve alzare, perché io vi chiedo quante volte assistiamo a degli incidenti stradali e la gente scappa? E io me lo sono chiesto. Ma perché? Anche gente per bene, cioè anche gente che non aveva nulla mai a che fare con la giustizia, perché si sconvolgono, questa è la risposta. Perché si sconvolgono, questa è la risposta. E allora vi chiedo, ma è possibile che nella pratica sessuale, che non è quella del questa è l'invenzione, quella del Cristo, ma dillo a me, quella è una pura invenzione. Allora, che nella pratica sessuale che si stava svolgendo, e il Fuccia vi ha ricordato le modalità, guardate che le modalità del Fuccia sono fatte proprio dal procuratore generale nell'atto di appello. Cioè il procuratore generale nell'atto di appello, secondo me, si fa prendere la mano, nonostante la sua risaputa intelligenza e sagacia, ma si fa prendere la mano. Perché anche il procuratore generale nell'atto di appello non vi è un passaggio che parla in positivo, non vi è un passaggio nel quale si dice voi dovete condannare Fuccia per questo motivo, non vi è un passaggio nel quale si dice sono lesioni volutamente procurate, perché qua è chiaro che le lesioni, voglio dire, qua possiamo parlare e disquisire come ci pare, possiamo parlare di dolo diretto, dolo eventuale, dolo come vi pare, no? Però dobbiamo dire che il comportamento del Fuccia era intenzionalmente diretto a provocare delle lesioni, non intenzionalmente, come dolo diretto, come dolo alternativo, come dolo eventuale accettava il rischio. Cioè lui aveva accettato il rischio, è come se io vado a 80 all'ora con la macchina in centro abitato, ammazzo una persona, accetto il rischio, sono responsabile di un omicidio, sotto il profilo del dolo eventuale. Sono responsabile di un omicidio volontario sotto il profilo del dolo eventuale. Io ho posto in essere, io Fuccia, ho posto in essere una pratica sessuale, ho posto in essere una pratica sessuale che mi è deflagrata in mano. Questo è il punto. Che mi è deflagrata in mano. Guardate, voi dovete partire. Voi non potete non partire dalla buona fede di Fuccia. Voi dovete dire che Fuccia è un bravo ragazzo. Salva dimostrazione del contrario. Allora, che pratica stava facendo? Il fisco? Era mia mente. Il fisco è una cosa che io, pure io, signor procuratore, nonostante la mia giovane età, non sono imparato come lei. Ma il fisco, ma chi lo stava praticando? Il Fuccia parla di una manipolazione pre-rapporto. Probabilmente non si stava rendendo conto, e a un certo punto di questa manipolazione la situazione gli è deflagrata in mano, tant'è vero che si è vista la mano piena di sangue e si è messo paura.